9 in punto. Di nuovo una giornata, dunque cari ascoltatori, il tema che affrontiamo oggi, come già vi dicevo nell'introduzione, è il tema dell'occupazione femminile e soprattutto dell'occupazione delle madri. Già qualcuno ci scrive, io ho fornito dei dati come per esempio il tasso di occupazione femminile per quanto riguarda le donne con figli che, parliamo di dati pre-crisi, è addirittura inferiore a quello della Grecia, dati OCSE al 48,3% contro il 48,4% greco. Naturalmente gli altri paesi nemmeno ve li dico, la Spagna è ancora sopra, comunque sopra il 50%, e ho definito poco fa questi dati scandalosi perché li ritengo, oltre che un elemento, un segnale di discriminazione, soprattutto uno spreco di capitale umano e intellettuale fortissimo. Voglio però subito rispondere a chi scrive via Twitter, come Giordano, dice: io sono padre di 3 figli e quello che dice svilisce il valore di una mamma o di un papà che stanno a casa. E ancora, ma quello che pensa lei, fare la mamma a tempo pieno è uno spreco? No, non penso questo, non penso che fare la mamma o il padre a tempo pieno sia uno spreco, penso però che ci debba essere libertà di sceglierlo, insomma libertà di poterlo fare, mentre invece spesso non è così, le donne si trovano costrette a rimanere a casa. Questo è il tema di oggi. 800 24 00 24 per le vostre storie, i vostri racconti, i vostri interventi e le vostre opinioni, oppure l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Paola Profeta, buongiorno. Sì, buongiorno. Docente all'Università Bocconi di Milano, autrice, l'ultimo libro è Donne in attesa d'Italia della disparità di genere, o mi sbaglio? Sì. Benissimo. Sì, sì. E saluto Andrea Ichino, che insegna all'Università di Bologna. Buongiorno Ichino. Buongiorno. Autore anche lui di un libro, tra l'altro insieme ad Alberto Alesina, si chiama L'Italia fatta in casa. È un elemento in parte collegato a questo, perché un altro forte elemento di disparità arriva in conseguenza dei dati che abbiamo appena riferito e che abbiamo riferito insomma subito prima del GR è la differenza nei carichi di cura che ci sono in casa tra donne e uomini. Paola Liberace, infine, autrice del libro Contro gli asili nido. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Un libro che ha fatto molto discutere, anche questo è uscito qualche anno fa, 3 anni fa, se non sbaglio, Liberace. Sì, sì, quasi 4 ormai. Sì. Quasi 4 ormai. Iniziamo i ragionamenti. Ne abbiamo sentite in campagna elettorale, naturalmente questo è un tema, se vogliamo, marginale. C'è qualche elemento all'interno dei programmi dei partiti. Si parla, per esempio, nel programma di Mario Monti, di Scelta Civica, della possibilità appunto di detassare, di aumentare la tassazione sul lavoro femminile. Nel programma del PD si parla, per esempio, di incremento degli asili nido, poi di questo parleremo magari con la stessa Liberace, il cui titolo del libro mi sembra già abbastanza indicativo. Inizierei però da Andrea Ichino, che appunto è in realtà l'autore di una proposta sulla detassazione del lavoro delle donne, però con l'idea che questi soldi rimangano in casa, no Ichino? Come funziona? Ma sì, la proposta tra l'altro si riprende bene il tema dell'intervento dell'ascoltatore da lei citato poco fa, perché è sicuramente un'anomalia italiana questo squilibrio nel lavoro tra donne e uomini nel mercato e in casa rispetto agli altri paesi comparabili al nostro, però non possiamo escludere, e questa è una cosa da chiarire molto bene anche con gli ascoltatori, che parte di questo equilibrio corrisponda alle preferenze degli italiani, e quello che diceva quell'ascoltatore è esattamente questo, cioè io credo, i miei dati lo mostrano, che ci sono molte famiglie in Italia in cui la situazione di squilibrio va bene e corrisponde alle preferenze delle persone. Ce ne sono però tante altre in cui invece sarebbe preferibile, i compagni preferirebbero una allocazione equilibrata. E come diceva l'ascoltatore molto giustamente, noi non dobbiamo abbandonare in Italia l'idea di interventi che costringano le donne a lavorare di più in generale o gli uomini a lavorare di meno in generale. Dobbiamo in realtà pensare, cambiare completamente il modo di pensare alle politiche di genere e pensare in particolare a politiche che consentano alle famiglie di fare le scelte che preferiscono. E la tassazione differenziata nella versione che appunto stiamo proponendo adesso è proprio questo, cioè l'idea di consentire alle famiglie di scegliere liberamente a parità di gettito familiare chi ha l'aliquota fiscale maggiore tra i due coniugi o compagni. E questo consente essenzialmente una sorta di work sharing familiare, un incentivo familiare a ridistribuire il lavoro a seconda delle preferenze. Quindi le famiglie che preferiscono avere un carico più equilibrato tra donne e uomini sceglieranno un'aliquota fiscale maggiore per gli uomini e inferiore per le donne, in modo da favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo è, secondo lei, quello che vorrei capire è dove si cavano le risorse per una detassazione di questo tipo, perché poi sempre là dobbiamo andare a parlare. No, è proprio questo il grosso vantaggio di questa proposta rispetto a tutte le altre. Questa proposta è una proposta che consente di aiutare l'occupazione femminile per quelle donne che vogliono lavorare di più, senza oneri per lo Stato, perché è la maggiore tassazione dell'uomo che compensa la minore tassazione delle donne. E l'idea di questa proposta nasce proprio dal fatto che l'origine delle differenze di genere non è nel mercato del lavoro, ma è in famiglia. Le aziende non hanno nessun motivo per discriminare le donne. Su questo... L'unico motivo che hanno per pagare alle donne di meno o farle lavorare di meno è che sono considerate lavoratrici a rischio, perché nella cultura italiana mediamente sono quelle che si occupano dei carichi familiari. Quelle donne che invece non vogliono che sia così, perché dividono equamente i compiti con i loro mariti e quindi vogliono dire alle imprese che loro non sono quelle che si occuperanno necessariamente della famiglia perché hanno un compagno che può farlo, il modo che hanno per dire alle imprese questo e quindi per non essere discriminate è proprio di scegliere una tassazione a loro favorevole per il lavoro. E questa tassazione a loro favorevole è compensata dalla tassazione meno favorevole per l'uomo e quindi per il bilancio pubblico non c'è una diminuzione delle entrate. Chiarissimo, Ichino. Tra l'altro ci scrivono via SMS stavolta, ma la percentuale non è lo specchio della mancanza di libera scelta, anzi può essere indice del contrario. Sì, è vero anche questo, infatti Ichino lo sottolineava, insomma ci sono anche evidentemente delle ragioni culturali. Paola Profeta, come le sembra la proposta di Ichino, l'idea di Ichino? Non è un po' una forzatura? Ma dunque, sicuramente ci sono molti aspetti su cui io sono perfettamente d'accordo, cioè il problema è innanzitutto di tipo culturale, per cui all'interno del nostro paese abbiamo ancora una cultura secondo la quale è la donna a doversi far carico del lavoro di cura, in particolare della famiglia. Quello che a me è sempre sembrato un elemento essenziale è che comunque questo è vero soprattutto quando esistono dei carichi di cura, in particolare la presenza di figli piccoli o la presenza di anziani non autosufficienti. Quindi un'altra anomalia italiana alla quale dovremmo dedicare un po' di attenzione è proprio il fatto che nonostante questa bassa occupazione femminile e occupazione delle madri, i dati che ricordava lei all'inizio, noi siamo anche il paese con un bassissimo tasso di fecondità, cioè non è un paese questo in cui si fanno tanti figli, per cui questo elemento è una contraddizione. Noi sappiamo che ormai in molti paesi europei la ripresa, l'aumento del tasso di occupazione femminile si accompagna anche ad un aumento della fecondità, perché le famiglie in cui esistono due redditi sono anche quelle che garantiscono una maggiore qualità di vita, una maggiore sicurezza, nella quale si riesce ad innescare, diciamo così, questo percorso virtuoso per cui non soltanto le donne lavorano di più, ma anche ci sono anche più bambini. L'anomalia italiana principale che consiste in questa appunto basso lavoro femminile, basso lavoro delle madri e bassa anche fecondità deve essere chiaramente è un elemento importante da rompere. Io sono d'accordo con la possibilità di avere fisco come elemento, comunque come parte, diciamo, di soluzione del problema, non so quanto, cioè non vedo comunque l'Unione una ricetta magica, diciamo così, perché il problema mi sembra molto complesso, in particolare legato appunto non in generale alla categoria donne, ma alle donne, alle madri, quelle di cui sto parlando oggi, che sono diverse rispetto alle donne senza carichi di cura. E quindi vedrei questa misura anche fiscale un po' più mirata ad un sistema che permetta di occuparsi di, in particolare di queste persone, di queste donne che devono scegliere tra lavorare e occuparsi della propria famiglia, dei propri figli, in base al fatto che per cultura sono le donne le persone, i soggetti su cui ricade la maggioranza del carico all'interno del nostro paese. Un altro elemento secondo me importante è che il tasso di occupazione delle madri è più basso di quello di tutta la corte di riferimento, appunto, non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi, quindi noi siamo sotto per tutte le classifiche perché comunque già partiamo da un dato basso e scendiamo. Però quello che si osserva all'interno del nostro paese è proprio che alla nascita, dopo la nascita di un figlio, quando anche dopo un po' di anni, l'occupazione femminile si riduce e non si riallinea dopo anni a quella dell'intera corte, perché l'uscita dal mercato del lavoro è praticamente definitiva e questo dipende da come fate il mercato del lavoro. Sì, è interessante, questo elemento che diceva lei. Tra l'altro qua abbiamo sotto mano i dati, che sono dei dati OCSE, per cui dai quali emerge per esempio che in un paese come la Francia, quando una donna ha un figlio con meno di 2 anni, l'occupazione, il tasso di occupazione è al 53,7%, che risale nella fascia di età, quando il bambino o ragazzino inizia ad avere 6 e 16 anni, risale di circa 10 punti percentuali. In Italia rimane inchiodato al 47,3%, quindi insomma non 47,3, 47,5, insomma 50, siamo intorno a quella quota. L'elemento mi sembra interessante, un elemento sul quale magari torneremo nel corso della puntata. Io voglio chiudere il giro di opinioni e poi voglio sentire qualche ascoltatore con Paola Liberace, partendo proprio appunto da questa proposta di Chino, che appunto dico forse è un po' una forzatura per certi aspetti, ma può essere una forzatura necessaria secondo lei? Sì, secondo me la proposta di Chino è assolutamente condivisibile come strumento di incentivo all'ingresso delle madri nel mercato del lavoro. Secondo me però poi c'è un problema che si incontra una volta che questo ingresso è avvenuto, e cioè il fatto che in particolare le madri si confrontano con un'organizzazione del lavoro assolutamente rigida. Cioè, a mio parere, il fatto che le madri non rientrino al lavoro o comunque lasciano il lavoro dopo il primo o dopo il secondo figlio, ancora peggio, è dovuto al fatto che rientrando si confrontano con un sistema di tempi e di luoghi che è del tutto inadeguato alle scelte che hanno fatto. Poi magari torniamo anche su questo tema delle scelte, perché secondo me non esistono scelte definitive, cioè non ci sono persone che decidono per tutta la vita di dedicarsi alla casa o per tutta la vita di dedicarsi al lavoro, e questo le aziende stanno incominciando a capirlo, a considerare i lavoratori come cose, come realtà umane un po' più complesse, insomma, di uomini così a una dimensione. Quindi secondo me il problema qual è? È proprio nella convinzione che sembra ancora radicata che ci sia un'organizzazione del lavoro fissa, invariabile, che non sia possibile modificarla, che non sia possibile ritornare su quelli che sono i suoi capisaldi, per esempio una retribuzione ancorata alla presenza invece che al merito e al rendimento. Allora, secondo me la giusta proposta di Chino, che è comunque una proposta ripeto di incentivo condivisibile all'ingresso delle donne e delle madri nel mercato del lavoro, va assolutamente accompagnata da una serie invece di interventi sull'organizzazione del lavoro che portino le aziende a prendere atto di qualcosa che è già reale, cioè della possibilità di lavorare da remoto, della possibilità di occuparsi delle incombenze familiari, anche voglio dire contemporaneamente a quelle lavorative e professionali, cosa che è già realtà, ripeto, per la stragrande parte dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto dei servizi. Quindi secondo me tra il lavoro e la famiglia abbiamo insistito molto spesso e troppo spesso sulla famiglia. Bisogna, secondo me, adesso intervenire anche un po' su come è fatto il lavoro. Chiarissima, quindi l'attenzione deve essere posta probabilmente anche sul lato aziendale e il tema è questo. Voglio prendere le prime due telefonate. Federica che ci chiama da Verona, buongiorno. Buongiorno, allora io ascoltavo questa signora che diceva che comunque bisogna intervenire sulle aziende. Sono d'accordo perché innanzitutto io sono stata fortunata, sono mamma di 3 bambine, 4, 2 anni e 5 mesi e ritorno a lavorare molto molto volentieri tra pochissimo tempo, ovvero la settimana prossima, ma perché ho avuto la possibilità che me l'hanno data i miei datori di lavoro, nel senso che mi hanno ridotto l'orario di lavoro e mi sono venuto incontro su tante cose, flessibilità di entrata e di uscita dal lavoro, non ho problemi se le bambine si ammalano a restare a casa 2 o 3 giorni, non ho problemi se devo andare a fare una visita al lavoro per le bambine, e quindi diciamo faccio anche di più il lavoro e mi diverto anche andare al lavoro, ed è uno sfogo per me andare al lavoro fondamentalmente, no? Capisco, le chiedo Federica di abbassare la radio per gentilezza, e ho una domanda però io, per lei adesso, ed è però prospettive di carriera immagino zero con orario di lavoro ridotto, perché l'altro tema interessante è ci sono paesi dove nonostante il part time si possono fare progressi in carriera, si può procedere nonostante si sia madri, e questo forse in Italia è un pochino più difficile. Questo è molto più difficile, nel senso che comunque l'Italia ha ancora la mentalità che tu devi lavorare 10 ore al giorno per produrre tanto. Io invece facendo 3-4 ore al giorno produco fatalità come una che fa 6-7 ore al giorno o anche 8, perché comunque io vado al lavoro, sulla mia scrivania non mi alzo neanche un momento, ma sono felice di farlo perché per me è qualcosa che faccio anche per me lavorare, no? Ora, una donna in questo momento, in questa epoca storica, non posso secondo me fare solo la casalinga. Chiarissimo, Federica, è condivisibile, sentiamo anche Gianni che ci chiama da Prato, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e complimenti per la trasmissione. Io mi riaggancio a quello che diceva Federica e vi porto la mia esperienza ad una piccola realtà professionale con 5 dipendenti, tutte donne, diverse di loro ormai con figli. Io voglio fare un'osservazione e spero non venga travisata, cioè penso che la realtà italiana sia diversa non solo per come viene approcciato il mondo del lavoro da parte del datore di lavoro che non assume o che ha difficoltà con le madri, ma anche dalle stesse madri, cioè l'Italia c'ha purtroppo questo tipo d'approccio, i figli sono bamboccioni e le mamme sono mammone, cioè non riescono molto spesso, io parlo della mia esperienza, a tornare sul posto di lavoro con quella concentrazione, con quella dedizione che le contraddistingueva precedentemente alla maternità, cioè non riescano molto probabilmente, almeno diverse di loro, a distinguere il mondo del lavoro col mondo della famiglia, e questo le penalizza assolutamente, secondo me. Va bene, Gianni, questa è la sua opinione, naturalmente insomma, si possono portare molte testimonianze diverse a partire da quella di Radio 24, dove insomma, ci sono moltissime madri che lavorano intensamente adattando i loro orari di lavoro anche alle esigenze dei figli, le mie colleghe segnatamente, e non solo loro. Sentiamo anche Diego che ci chiama da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Io ho 33 anni, sono padre di un bambino di 9 mesi e uno in arrivo fra poco. E con mia moglie ci siamo interrogati sul fatto che lei riesca a ritornare al lavoro quando questa seconda maternità sarà finita. E ci siamo chiesti: ma come mai le nostre aziende, la mia o il datore di lavoro di mia moglie, non riesce a creare qualcosa a supporto di una situazione come la nostra, che è come quella di tanti nostri colleghi? Ad esempio creando un asilo nido all'interno dell'azienda, sia nel caso della mia azienda che nel caso dell'azienda di mia moglie, gli spazi ci sarebbero anche le possibilità, e mi chiedo come mai, ad esempio, nessuno a livello di governo abbia fatto una proposta per incentivare una situazione che potrebbe, a mio avviso, risolvere molti problemi ed agevolare situazioni come la mia. 9 in punto. E dunque, riprendiamo col tema, però voglio subito girare una domanda a Paola Profeta, invece docente all'Università Bocconi di Milano, poi torneremo dalla Liberace. Dice l'ascoltatore, dice prima, insomma, le donne poi quando rientrano al lavoro rendono di meno, in realtà dopo la maternità, in realtà le evidenze sono completamente diverse proprio dal punto di vista scientifico e degli studi economici, insomma, no? Sì, non c'è questo tipo di risultato sul fatto che essere donna vuol dire rendere di meno, in particolare essere madre. Peraltro il figlio dovrebbe essere sempre visto come una questione genitoriale, insomma, di entrambi i genitori, quindi non è chiaro perché questo debba essere un problema femminile rispetto al padre, ecco, quindi su questo starei veramente molto, molto cauta, perché si rischia proprio di far proprio poi giustificare quelli che possono essere poi dei comportamenti non appropriati o comunque anche addirittura discriminatori da parte dell'azienda. Cioè, sicuramente le casistiche sono tante, però generalizzare questo tipo di esperienza o questo tipo di comportamento sarebbe veramente tra l'altro ci sono paesi, già lo si diceva insomma prima in apertura, come l'Olanda, dove a volte questi elementi rientrano addirittura nei curricula, le donne scrivono nel curriculum come esperienze acquisite la maternità in termini di capacità di quello che viene definito time management, ossia insomma gestione del tempo in sostanza, capacità di multitasking, ossia di gestire più situazioni contemporaneamente, oltre naturalmente all'incremento di responsabilità che deriva dall'essere sia padri che madri in questo caso. Paola Liberace, questi asili nido. Dunque, volevo dire anzitutto una cosa. Io giuro che non mi sono messa d'accordo con nessuno degli ascoltatori che ha telefonato, perché credo che le loro dichiarazioni, insomma, riflettano in maniera abbastanza eloquente quello che cercavo di raccontare. Io devo dire, quando sento appunto l'invito ad affidare i figli al nido, come dire, vadano al nido, mi sembra un po' come mangino brioche, cioè mi sembra una soluzione diciamo del tutto parziale, del tutto fuori luogo rispetto a un problema che è molto più ampio, che è un problema che non si esaurisce per dire ai 3 anni del bambino, che ovviamente non riguarda soltanto appunto il lavoro della madre, ma riguarda anche l'educazione e l'allevamento del figlio, e che non tiene assolutamente in conto il fatto che una madre possa scegliere, volere, desiderare di allevare personalmente, direttamente il figlio, almeno nell'età neonatale. Io capisco e rispetto diciamo le posizioni di chi sostiene l'assoluta intercambiabilità dei ruoli genitoriali. Io ad esempio non sono di questo parere, credo però che si abbia molta più attenzione verso quelle posizioni rispetto a una posizione diversa. Allora, quello che io ho cercato di chiedere, di sostenere nel libro che si citava prima, contro gli asili nido, è appunto che a fianco a una serie di misure che prevedono la delega dell'educazione dei bambini e in particolare dell'allevamento dei neonati, vengano previste invece delle soluzioni che prevedono la flessibilità lavorativa e che quindi consentano comunque alle madri che lo desiderano, quindi senza imposizioni ma rispettando la libertà di scelta che credo ci debba essere, che consentano loro di dedicarsi direttamente ai figli. Vorrei anche dire, perché le madri e non i padri? Io non posso parlare, come dire, a nome dei padri, no? Credo che quando si generalizza il discorso si finisca sempre per commettere degli errori, specialmente appunto se si parla a nome di terzi. Io credo però che ci sia appunto un dato difficile da sottovalutare, e cioè il fatto che c'è un desiderio materno profondo, non devo descriverlo io, lo hanno descritto generazioni di studiose, basterebbe leggere quello che hanno sempre scritto le femministe della Libreria delle Donne di Milano, e che è un desiderio assolutamente incomparabile rispetto a quello paterno, è di un'altra natura. Allora, questi non sono, ripeto, discorsi sessisti, tant'è vero che vengono sostenuti anche da persone che si trovano su tutt'altra posizione rispetto al maschilismo, che quello che credo si debba fare però è assolutamente rispettare questa posizione come le altre, fare in modo che le misure che vengono prese consentano tanto l'una scelta quanto l'altra. Chiarissima, molti messaggi a favore del tema di una maggiore flessibilità. Io ripeto sempre, soprattutto su Twitter, vi prendete la responsabilità dei nickname che scegliete. Allora, Chicca Pantera dice: grazie, finalmente qualcuno che ha inquadrato il vero problema. Molto spesso le aziende private non hanno politiche flessibili. Silvietta dice: soluzione alla flessibilità, si lavora intensamente, spesso meglio anche da casa e fuori da orari standard, come già ci diceva tra l'altro l'ascoltatrice poco fa. E ancora Pietro Blu: il telelavoro renderebbe la vita di madri, padri e figli più serena, lavoratori più motivati, perché in Italia non esiste, o comunque esiste molto poco. Andrea Ichino: c'è anche un problema dal lato aziendale, posto insomma che la questione fiscale l'abbiamo enucleata, mi sembra abbastanza bene. C'è un problema su questo fronte, un problema di introdurre una maggiore flessibilità all'interno delle aziende, che sia una flessibilità vissuta bene tanto dai lavoratori quanto dall'azienda, quanto dai sindacati tra l'altro. Ma devo dire che forse ho un'opinione un po' diversa in questo senso, e vale sia per gli asili che per le politiche di flessibilità aziendale. Se gli asili e le politiche di flessibilità le pensiamo come politiche per le donne, e cioè se la conciliazione famiglia-lavoro la pensiamo come un problema delle donne, abbiamo sbagliato tutto. Stiamo andando esattamente nella direzione opposta a quella che dovremmo prendere, perché è come dare l'aspirina al malato per risolvergli il problema dei sintomi senza curare la causa del problema. Perché se per esempio andiamo a vedere i dati sulla Svezia e la Norvegia, vediamo che lì dove ci sono un sacco di servizi alle famiglie, lo stesso vale anche per la città di Bologna peraltro, è vero che le donne lavorano in grande quantità, però non fanno carriera e hanno salari molto diversi da quelli degli uomini e sono segregate in occupazioni molto diverse da quelle degli uomini. E questo perché anche se mettiamo un asilo nido a ogni angolo di strada, oppure in ogni azienda, e anche se consentiamo alle donne di fare il telelavoro e il part-time, se sono solo loro che lo fanno, mentre gli uomini continuano a fare tutto quello che hanno sempre fatto, le donne forse lavoreranno, ma non faranno mai carriera, non guadagneranno di più e non avranno nel mercato del lavoro una posizione simile a quella degli uomini. Quindi il problema non è, perché, e questo perché? Perché chi è che smonta alle 5 del pomeriggio qualsiasi cosa succeda per andare a prendere il bambino? Chi è che è in charge, che ha la testa concentrata anche su quello che succede in casa, si assicura che se il bambino sta male qualcuno lo curi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto una questione di offrire asili, bisogna anche cambiare la mentalità delle famiglie e fare in modo che prima ancora che lo Stato o le aziende siano i mariti e i compagni a occuparsi dei figli. Solo quando i carichi di lavoro saranno equilibrati all'interno della famiglia potremo decidere quanti asili costruire, quanti servizi aziendali alle famiglie costruire, ma attenzione, finché non abbiamo risolto il problema dei carichi in famiglia questo non serve a molto. Oltretutto teniamo presente che queste cose costano alle aziende, cioè non è che le aziende possono fare gli asili o il telelavoro gratis, e quindi il problema vero non è di fare queste cose pensandole per le donne, di fare queste cose pensandole per la famiglia, ma quando è la famiglia in primo luogo ad aver risolto il problema del femminile. E tra l'altro io dissento anche dall'idea che mi sembra un'ipocrisia dire che nella situazione italiana, e lo dico sapendo di andare incontro alle reazioni di chi mi ascolta, ma non è vero che le donne sono mediamente ugualmente produttive quanto gli uomini, ma non perché non lo siano per natura, non lo sono perché purtroppo noi uomini diamo a loro i carichi familiari. Che tra l'altro, Ichino, mi inserisco, che tra l'altro spesso non sono solamente quelli dei bambini, ma a volte, anzi spesso, anche quelli dei genitori anziani, poi quando si va più avanti nell'età, insomma, quindi il problema è doppio, insomma, da una parte e dall'altra della scala d'età. Prego. Esattamente questo, è tutta l'Italia fatta in casa che ricade sulle donne, e è proprio per questo che io ritengo che prima di pensare agli asili, prima di pensare al telelavoro, dobbiamo pensare a cambiare gli equilibri in casa. E la tassazione differenziata fa esattamente questo, perché induce la coppia a riflettere: chi vogliamo che nella nostra casa lavori di più o di meno, chi vogliamo che lavori in casa e lavori fuori casa. e la scelta, libera scelta del regime di tassazione a parità di gettito è esattamente il modo in cui consentiamo alle famiglie di fare le scelte che preferiscono, alla persona di Prato di scegliere in un modo, a quella di Verona in un altro e così via. Finché non avremo riequilibrato i carichi familiari e le aziende continueranno a partire dalla presunzione corretta che se succede qualcosa in famiglia sarà più probabilmente la donna che si assenterà dal lavoro che non sull'uomo, e tutti i dati lo dicono, tutti i dati dicono questo. Paola, la fermo, Ichino, chiarissimo, il punto è chiarissimo, voglio sentire qualche altro ascoltatore e ascoltatrice. Paola ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora io volevo dire che lavoro in un'azienda privata, sono tre figli di un bambino di 5 mesi e mezzo, sono diventata dirigente l'anno scorso quando avevo già comunicato di essere incinta per la terza volta, sempre all'interno della stessa azienda. Volevo dire che la mia azienda assolutamente offre la massima flessibilità, lavoro da casa, ma questo lo offre a tutte le persone che lavorano, perché ha capito che siamo ancora legati a questi schemi antichi del fatto che bisogna andare in ufficio per lavorare, e invece bisogna dare incentivi alle persone sui risultati ed è l'unico modo per poter farli lavorare. Però dall'altra parte lo Stato non mi supporta minimamente, se non avessi un certo reddito comunque anche familiare, al di là di quello che mi è stato disposizionato la mia azienda, non avrei mai potuto fare quello che ho fatto. Quindi il discorso culturale che sono le donne che vogliono stare a casa, le famiglie che decidono, è una cosa che bisogna assolutamente smantellare, perché voglio dire, è uno spreco assoluto e non, l'Italia non si supererà mai se uno deve, una famiglia per far lavorare tutte e due, cioè deve decidere se lavora la donna o lavora l'uomo, non è un discorso. Bisogna incentivare le persone a produrre, a lavorare e crescere, a costruire. 9 in punto. Sentiamo anche Simona che ci chiama da Udine, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo parlare di una categoria che ha spesso, purtroppo, magari per tempi o cose si dimentica, cioè quelli che sono le famiglie o le madri che si ritrovano con un figlio disabile. Io sono stata sempre una gran lavoratrice. Nel momento in cui ho avuto una figlia disabile, e mi sono ritrovata esclusa dal mondo del lavoro, perché ci sono i congedi, e il fatto di chiedere dei congedi per una ditta è come dire: tu non mi lavori abbastanza e non mi produci abbastanza. E io chiedo i congedi ovviamente perché non esiste una struttura o un'assistenza a casa per cui posso andare tranquillamente al lavoro e dire: ok, c'è qualcuno a casa che pensa a mia figlia. Per cui alla fine ho dovuto rinunciare al mio posto di lavoro, io che sono una gran lavoratrice, ripeto, per assistere mia figlia, proprio perché c'è una totale assenza della supporto. Presenza dello Stato, di supporto, ecco, non c'è nessun supporto. Io dico: voglio lavorare, vi aiutate? No, non c'è nulla, per cui io devo rinunciare al posto di lavoro, deve lavorare il mio compagno che oltretutto, avendo partita IVA, attenzione, non può, non ha diritto a niente. A niente. Perché naturalmente, quindi... le segnalo tra l'altro, Simona, che ve lo ricordo perché poi i podcast sono ancora disponibili, che la settimana scorsa abbiamo dedicato un'intera settimana anche a queste questioni, con una settimana dedicata al sociale, se ne è occupato spesso anche Gianluca Nicoletti su Melog. Naturalmente voglio sentire anche Gino che ci chiama da Milano, che credo che stia per introdurre anche il tema che in parte stava introducendo Ichino, ossia appunto questa condivisione dei ruoli all'interno della famiglia, insomma il lavoro degli uomini in casa. Ecco, Gino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Prego. Sì, diciamo che la nostra condizione familiare ci obbliga a dividerci tutto ciò che necessita la crescita del bambino. E non per ultimo, scusate l'emozione, è un po' di tosse. E in questo caso io adesso prenderò appunto un congedo parentale di circa 2 mesi, perché non ci possiamo permettere di mandare il bambino all'asilo, e mia moglie prende sicuramente dal punto di vista retributivo più di me, e ci conviene a questo punto che io resti a casa mia moglie vada come, lavoro. Come l'ha presa, Gino? Perché qua entriamo poi anche nel problema culturale. Come l'ha presa l'azienda questa cosa qua? Allora, l'azienda ancora lo deve sapere. Infatti diciamo, dal punto di vista di dirvelo prima a voi era per avvisarvi che fra un po' magari ci sarà qualcun altro spasso. No, speriamo di no, davvero. Però dal mio punto di vista individuale è la cosa più bella del mondo poter stare a casa con mio figlio e passare anch'io del tempo con lui. L'azienda sicuramente non so come la prenderà. Io lavoro in una multinazionale presente praticamente in tutto il mondo e che però come politiche familiari, anche per quanto riguarda le donne, di sicuro non eccelle. Chiarissimo, chiarissimo Gino, grazie anche per il racconto, credevo dire, in bocca al lupo. Credo che volesse intervenire Paola Liberace. Sì, pronto. Paola Liberace? L'abbiamo persa evidentemente, sappiamo che insomma voleva intervenire. Voglio sentire anche qualche altra telefonata, perché i racconti secondo me su questo tema soprattutto sono particolarmente importanti. Maria Eugenia ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora io porto testimonianza di breve, mamma, che siamo a ridosso della chiusura. Allora, in realtà io sono profondamente convinta che ci sia un problema di mentalità, ma è stato detto più volte in trasmissione, perché in realtà è quasi come se la mamma lavoratrice che o avesse una necessità impellente di lavorare, oppure è quasi un capriccio, no? E quindi debba delegare. In realtà non essendoci una legislazione precisa, è molto arbitrario da parte delle aziende il fatto di essere flessibili, di dare dei vantaggi alla mamma che decide di lavorare e però vuole pure occuparsi del bambino, perché l'alternativa sono lavorare e assolutamente delegare la crescita del bambino in questo momento in Italia, oppure rinunciare in parte o del tutto al lavoro e quindi a occuparsi del bambino. E penso veramente che ci sia veramente una grossa carenza legislativa su questo. Chiarissima Maria Eugenia, abbiamo recuperato Paola Liberace, che credo volesse intervenire. Liberace, prego. Sì, volevo tornare un attimo su quello che diceva Chino, anche cogliendo l'occasione dell'ultimo intervento degli ascoltatori. Cioè, io sono molto d'accordo sulla condivisione dei carichi familiari, sono più perplessa sul fatto che questo tipo di risultato possa essere ottenuto per mezzi, diciamo così, legislativi. Sono in particolare convinta del fatto che tutte le forzature, che tutte le, diciamo, gli obblighi previsti ai sensi di legge siano in qualche maniera aggirabili. Questo vale diciamo tanto per il congedo di paternità, per esempio. Adesso avevo davanti dei dati che dimostravano, questi sono dati dell'EIRO, quindi dello European Industrial Relations Observatory di Dublino, che dimostrano come in realtà l'obbligo di congedo parentale in Francia non ha poi generato una successiva godimento di congedo parentale facoltativo da parte dei padri. Perché? Perché alla base non c'è un cambiamento culturale, e quando non c'è un cambiamento culturale la legge può dire un po' quel che vuole. Quindi questo cambiamento culturale, secondo me, ne sono molto convinta anche per esperienza personale, si fa nelle famiglie, si fa tra i coniugi, si fa con una opera di condivisione e di responsabilizzazione reciproca tra le madri e i padri. Non sono così convinta che basti la detassazione, che pure, ripeto, mi sembra una misura ottima da attuare. L'altra cosa che volevo dire è che credo, come si diceva prima, che sempre più le aziende stiano prendendo atto del fatto che i lavoratori non sono, né uomini né donne, non sono macchine da lavoro, non sono semplicemente ingranaggi, sono persone con una vita. Molte aziende cominciano anche a valorizzare questo dato, cominciano, non dico che si faccia come in Olanda, insomma, in cui si riesce addirittura a valorizzarlo nei curricula, l'esperienza di maternità o paternità, però stiamo sempre di più parlando di work-life balance. E allora io credo che questo sia il passo in avanti decisivo, che non vale tra l'altro assolutamente solo per le donne, che vale per donne e uomini, perché riporta il lavoratore a una dimensione più complessa, più articolata, non a una sola dimensione nella quale l'alternativa è secca, e quindi di fronte all'alternativa secca e rigida non c'è altro che l'uscita, come dicevo prima, le donne. Chiarissimo, chiarissimo. Paola Liberace, dobbiamo chiudere, siamo in chiusura di trasmissione. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Rosa ed Eleonora Centralino. Chiedo scusa agli ascoltatori che non siamo riusciti a far intervenire. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24, la passione si sente.